Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapevate che è possibile colorare vestiti, stoffe e capi moda con dei sistemi naturali creati da piante che sono gli stessi che venivano raccontati da Plinio il Vecchio? Queste cose le fa Colorarum, che è una startup che ha sede a Terni ed è una delle prime startup create da Proter. Proter è una società finanziaria, una specie di venture capital che si propone di far nascere progetti chimici a Terni. Infatti Proter significa pro termini, pro termi. E oltre a Colorarum ci sono per il momento anche 3D Yarn, che si occupa di manifattura additiva attraverso materiali a base polipropilenica, e Neocarpet, che realizza tappeti e moquette di design sempre sulla base di colori naturali, perché l'idea di Proter è di fare una chimica di terza generazione a Terni, cioè una chimica che si basa sulle risorse naturali, sulle risorse agricole. Per chimica di terza generazione si intende questo. Oggi ne parliamo con Marco Mazzalupi, che è l'imprenditore della finanziaria industriale che sta dando vita a tutto questo. Buongiorno. Buongiorno a te. E con Andrea Aparo, che è l'amministratore delegato di Proter. Praticamente abbiamo l'investitore e il manager operativo. Allora, Mazzalupi, ci dica in modo sintetico ed efficace a che cosa mira Proter. Proter si basa sulla volontà di cercare all'interno del mondo della ricerca e delle nuove iniziative dei progetti che hanno capacità di essere industrializzati nel settore chimico, e cerca di coprire quindi il gap che c'è oggi, che spesso si trova tra la ricerca di laboratorio e il prototipo industriale, per poter permettere a questi prodotti di avere un successo sul mercato. Io quindi sono stato riduttivo quando ho detto che sviluppate progetti di chimica di terza generazione a Terni. Sì, a Terni non sviluppiamo soltanto progetti di chimica di terza generazione, ma cerchiamo di realizzare delle vere e proprie industrie che poi, con un concetto di scalabilità, possano andare sul mercato in maniera più significativa. Tutto nell'ambito della chimica di terza generazione, cioè quella derivata da prodotti agricoli. Da prodotti agricoli e comunque non solo, nel senso che per chimica di terza generazione, e poi Andrea sicuramente ci può dare qualche indicazione più precisa, noi intendiamo tutta quella chimica che possa avere un impatto ambientale più ridotto. Ah, ecco. Ecco, tra l'altro Proter ha l'obiettivo di capitalizzare l'eredità del nuovo manifatturiero dell'ex Polo Montedison. Assolutamente sì, perché ho voluto insediare questa iniziativa all'interno del Polo Chimico di Terni, dove, acquisendo un'altra realtà nel settore dell'industria chimica, ho trovato un importante know-how che poteva essere rivitalizzato. Cioè, quale attività avete acquisito? La Neofil. La Neofil che cosa faceva parte della Montedison? Sì, la Neofil è stata una società di creazione tra la Hercules e la Montecatini nella realizzazione di fibre sintetiche. Ma quando è morta? Diciamo che è durata fino al 2013, quando l'ho rilevata, ma con una serie di difficoltà di passaggi di proprietà per Basel e poi per l'amministrazione straordinaria. Diciamo che non era più un asset strategico per il gruppo Basel. Ecco, una ventina d'anni fa, quando chiuse la Montedison, Giuseppe Turani disse che la chimica in Italia era morta. Certi necrologi in realtà portano fortuna, perché la chimica non solo non è morta, ma gode di ottima salute. È una chimica di medie e piccole imprese, di realtà eccellenti, e sì, ci sono dei problemi, ma ci sono soprattutto sulla chimica da derivati del petrolio e dalle materie plastiche, cioè Versalis e dintorni. Comunque, di tutto ciò ne parliamo ancora e bene dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Marco Mazzalupi e Andrea Aparo del progetto Proter, chimica di terza generazione a Terni. Questo progetto viene perseguito da una holding che a sua volta dà vita a delle start-up che poi possono, oppure no, acquisire la sostanza di un'impresa. Una delle prime di queste startup si chiama Colorarum e si tratta di tinture con sostanze naturali o agricole. Senta, Aparo, ce la racconta brevemente? Volentieri. L'idea è molto semplice. Si sa che ci sono una certa dose di piante che, grazie ai loro fiori, foglie, arbusti, radici, opportunamente trattati, consentono la generazione e la produzione di pigmenti. Questi pigmenti sono conosciuti dall'antichità. La regione Umbria ha a disposizione delle terre attualmente non utilizzate a fini agricoli e sicuramente non destinabili a produzioni alimentari, e il progetto vuole da una parte valorizzare questi terreni, quindi dare un grosso un impulso alla parte, se vogliamo, delle produzioni agricole, e dall'altra mettere in piedi la filiera che consente la trasformazione fino ad aggiungere dei pigmenti in polvere utilizzabili dai vari settori industriali. E perché dovrebbero utilizzare questi pigmenti e non quelli che si sono usati finora, che sono molto più semplici? Innanzitutto per poter affermare che il loro prodotto è il 100% bio, per utilizzare una risorsa naturale rinnovabile con scarti minimi, se non nulli, molto vicino al nulla, ed è una nuova forma di chimica, una nuova forma di settore industriale. Ecco, io devo confessare che personalmente a me tutto il discorso sul bio, sulla sostenibilità e dintorni lascia molti sospetti e mi sta anche un po' antipatico. Lo trovo un marketing per far pagare le cose più care e proprio anche uno di quei fenomeni di massa che francamente mi danno un po' fastidio. Però riconosco che siccome basta che oggi ci metti l'etichetta bio, una cosa si vende nel mondo, l'intuizione è giusta, una roba del genere secondo me potrà avere molto successo. Io ho parlato in una delle precedenti puntate di un'azienda veneta che usa per i tessuti dei macchinari come c'erano nell'Ottocento, ancora senza l'elettricità, e li fa pagare molto più cari e riesce a vendere questi tessuti col made in Italy di una volta, che poi diventano abiti, questi tessuti li riesce a vendere in Medio Oriente, li riesce a vendere in Giappone, li riesce a vendere dando il concetto di Made in Italy di una volta, e fa dei profitti pazzeschi. Quindi secondo me il filone è azzeccato quanto mai. Certo, noi non è tanto il bio che ci interessa quanto l'applicazione del modello dell'economia circolare. A proposito dell'esempio che stavi portando, il tessuto è diverso da quelli fatti a macchina con telai moderni, perché cambia la fisica della tessitura, cambia la elasticità della fibra, cambia la morbidezza del tessuto, quindi c'è un reale valore aggiunto. I clienti non si fanno prendere per il naso, conoscono un valore e pagano un prezzo. Sì, ma non è detto che poi il cliente lo riconosca. Gli dici che è bio e oggi tutto quello che è bio va. Non basta dirlo, devi anche dimostrarlo. Devi anche dimostrarlo, nel senso che voi sicuramente sarete... Diciamo che nel caso specifico poi c'è da considerare anche che siamo in grado di garantire la filiera. La maggior parte dei coloranti oggi che vengono utilizzati nell'industria chimica derivano da paesi dove non c'è un controllo sociale del lavoro. Ecco, ma i vostri progetti quindi alimentano anche l'agricoltura locale? Assolutamente sì, stiamo collaborando con la Coldiretti, che è il principale rappresentante, diciamo, degli associazionisti o degli agricoltori sul nostro territorio, per cercare di creare una filiera molto più ampia. Ecco, invece, dottor Mazzalupi, mi racconti che cosa fa Neocarpet, tappeti e moquette di design attraverso una strategia che si basa sulla flessibilità e sostenibilità del prodotto. Neocarpet è un'azienda che produce moquette, e l'obiettivo che si è posta è quello di raggiungere una capacità totale di riciclabilità della moquette alla fine del proprio ciclo di vita, cosa che oggi è molto molto difficile. E invece 3D Yarn fa manifattura additiva, dottor Aparo. Manifattura additiva l'abbiamo spiegata ai nostri ascoltatori tante volte, è la manifattura che viene fatta attraverso le cosiddette stampanti 3D, che operano per addizione di materia su strati invece che per sottrazione come fino ad oggi si è sempre fatto. Che cosa c'entra la manifattura additiva con la chimica di terza generazione? C'entra il materiale. La 3D Yarn si propone di utilizzare come materiale per queste stampanti il polipropilene, utilizzando le competenze che si sono state sviluppate nel corso degli anni nell'ambito delle fibre. Il polipropilene è riciclabile al 100%. Il modello di business che si ha in mente anche prevede la ritiro degli oggetti fatti non più di interesse da parte del cliente e la totale riciclabilità di questo materiale. Comunque sembra che per la chimica di terza generazione ci siano delle prospettive molto interessanti, soprattutto delle prospettive in Italia e delle prospettive di rilancio per l'Italia, nel senso che può crescere e può fare da volano per tutta una serie di altre attività di sviluppo. C'è uno studio che voi avete commissionato a The European House Ambrosetti che dice che la capacità di generare valore è a 9 miliardi entro il 2020, giusto? Dottor Mazzaluppi? 9 miliardi è la stima che è stata fatta attualmente del mercato con la capacità di applicare il concetto di chimica di terza generazione, quindi rivedere la chimica che è attuale presente sul mercato. Quindi se 20, oggi 20 miliardi è la capacità che abbiamo di raggiungere entro il 2020. Quindi è un'ipotesi, se si rivedesse l'attuale modo di fare chimica sulla base del concetto di terza generazione, potrebbero esserci 9 miliardi generati da questo settore? Assolutamente sì, riducendo in maniera significativa gli impatti ambientali. La cosa interessante da notare è che in Italia c'è una qualità di risultati della ricerca nell'ambito sia accademico che degli istituti di ricerca tale che se solo si riuscisse in maniera rapida a trasportare questi risultati al settore manifatturiero, il fattore di crescita. Ma infatti quello che manca è la ricerca precompetitiva, cioè quello che sta in mezzo tra la ricerca di base e l'attività industriale. Noi abbiamo fatto una puntata andata in onda la settimana prima sulle Fraunhofer, spiegando che uno dei motivi del successo industriale tedesco è avere questi istituti così potenti, pubblici, che fanno ricerca precompetitiva da mettere a disposizione delle aziende, ricerca precompetitiva che in Italia non c'è, al punto tale che le aziende italiane si rivolgono alle Fraunhofer tedesche in certi casi e le pagano. Infatti uno degli aspetti dell'attività di Proter è quella di offrire, di ospitare gruppi di ricerca misti o anche puramente di aziende per il completamento rapido delle attività di preindustrializzazione dei loro progetti in un ambiente dove possono farlo in maniera confortevole. Quindi rapida. Ci sono anche in Proter delle attività di ricerca. Sì, noi cerchiamo di connettere in maniera significativa quella che è l'attività di ricerca e il vero valore industriale, diciamo, evitando che in questa fase si possano perdere delle potenzialità interessanti. L'altra cosa da sottolineare è che l'elemento critico e attualmente veramente difficile da trovare sono la qualità e la voglia delle persone di fare impresa. Gente che ha esperienza e competenza nell'ambito della ricerca, della tecnologia, che abbia anche voglia di mettersi alla prova e fare impresa. Non è molto alla moda. Devono farla loro l'impresa? L'impresa la devono fare i ricercatori oppure l'impresa la deve fare qualcun altro che fa lavorare i ricercatori? In questo tipo di applicazioni è importante che ci sia che rimanga e sia presente la competenza del ricercatore, perché sono attività dove la ricerca non si conclude mai. Il momento che fermi la ricerca, hai fermato lo sviluppo, esci dal mercato. Il concetto di circolarità è anche quello che non esiste una soluzione di continuità, è un processo continuo, quindi servono queste persone, serve il mix, ecco, di competenze. In un minuto ci spiega che cos'è l'economia circolare? Molto semplice, immaginatevi un'economia dove lo scarto viene minimizzato, ma esiste, e le risorse sono all'interno di un ciclo di rigenerazione, di utilizzo complessivo sia dalla parte materiale sia dalla parte di informazione e conoscenze. Cioè, si fa una combinazione fra informazione, conoscenze, abilità, competenze e la parte materiale, che significa manifatturiero, vuol dire servizi, vuol dire economia, settore primario dell'economia, che lavorano insieme. È un modo per superare la divisione classica fra economia primaria e secondaria. Comunque, Mazzaluppi, voi state creando un sacco di lavoro a Terni con la Proter. Sì, noi crediamo che ci saranno delle ricadute molto importanti. Investiremo nei prossimi 3 anni all'incirca 16 milioni e di questi qua per portare un significativo incremento dei ricavi su quel territorio ed anche un'occupazione non indifferente. Vediamo. Ecco, ma tutte queste risorse, lei ha una finanziaria che si chiama Finanziaria Industriale, già il nome mi piace, perché come gli ascoltatori sanno, noi siamo fan dell'industria in questa trasmissione. Però le risorse non credo che siano tutte sue, farà un aumento di capitale. Lei sta cercando nuovi soci? Assolutamente sì, noi ci stiamo focalizzando comunque sia sulla ricerca di fondi di investimento e di soci che possano coadiuvarci in questo percorso. Beh, la cosa è così interessante che immagino che il problema sarà difendervi dalle innumerevoli richieste. In questa fase sì. Bene, allora ricordo la vostra mail che è info@pro-ter.com. Garantite la risposta. Il tempo è tiranno, quindi ringrazio l'amministratore delegato Aparo, buongiorno. Grazie infinite. Arrivederci e ringrazio anche il fondatore. Grazie mille.